2024 di Enrico Pagliarini. Questa settimana parleremo di startup e poi parleremo anche di intelligenza artificiale. Questo è un tema di estrema attualità, lo sarà per molti anni, ma se ne sta parlando molto perché è connesso ad un altro grande tema di cui si sta parlando, quello dell'industria 4.0, cioè l'evoluzione dell'industria delle fabbriche che grazie alla sensoristica, grazie alla Internet of Things, alla Internet degli oggetti, quindi sensori connessi alla rete e connessi a macchine che non sono solo capaci meccanicamente di fare cose meglio degli uomini, ma anche abilitate dall'intelligenza artificiale, trasformano la produzione degli oggetti. E visto che la manifattura è un elemento importante della nostra economia, è una parte molto importante dell'economia italiana, siamo la seconda manifattura in Europa dopo la Germania, questo è un tema che dovrebbe riguardarci molto da vicino. Quindi ne parleremo anche nel corso delle prossime settimane, anzi ho fatto proprio questa settimana una intervista molto interessante che vi proporrò la prossima settimana. Dunque, pochi giorni fa Apple ha tenuto il consueto tradizionale appuntamento di primavera dedicato agli sviluppatori. Le novità più importanti riguardano iOS 10, quindi la versione nuova del sistema operativo di Apple, che vedremo sui nuovi iPhone che arriveranno a partire dall'autunno e poi sarà disponibile anche per tutti gli altri utenti di iPhone. Ci sono alcune novità interessanti e direi che forse tra le novità più interessanti citerei la nuova interfaccia Home che di fatto crea all'interno dello smartphone di Apple sull'iPhone una sorta di telecomando per tutti gli oggetti connessi della casa intelligente. Ovviamente questi devono essere fatti, se si vogliono utilizzare con un iPhone, devono essere fatti e realizzati su protocollo Apple HomeKit. Ci sono già alcuni produttori che stanno proponendo i loro prodotti con questo standard e sicuramente questo sarà uno dei temi dell'autunno. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. È stato presentato ufficialmente il nuovo standard Bluetooth. Allora, la versione numero 5, quindi Bluetooth numero 5, sarà due volte più veloce rispetto allo standard attuale. Gli apparecchi con questa tecnologia potranno comunicare a distanza quadrupla e di addirittura 8 volte in più in modalità broadcasting, cioè quando ci sono delle antennine che trasmettono dati. Questa modalità è utilizzata per i cosiddetti servizi di prossimità. Passo davanti ad un negozio oppure passo davanti, che ne so, ad un totem e se c'è questa antennina Bluetooth mi arrivano delle notifiche, delle informazioni sul mio smartphone. Digital News. L'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano stigmatizza la scarsa digitalizzazione delle imprese italiane. È una bella tirata d'orecchie, fa molto bene. Allora, l'e-commerce B2B, quindi il commercio elettronico tra aziende, tra soggetti che fanno business, allora, valeva nel 2015 solamente, pensate, 260 miliardi di euro, cioè appena il 10% del totale degli scambi tra le imprese. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica fra imprese, che non è ancora obbligatoria, ma visto che ci sono tantissimi vantaggi, perché non farla? Allora, per il momento riguarda solo il 6% delle aziende, quindi diciamo che purtroppo abbiamo un panorama aziendale piuttosto arretrato se parliamo di digitalizzazione. Digital News. Parliamo di Microsoft, che ha annunciato un accordo per acquisire per 26,2 miliardi di dollari LinkedIn. È la cifra più alta mai pagata da Microsoft per acquisire una società e questa è l'acquisizione numero 196 della storia di Microsoft. Allora, l'obiettivo è collegare il 1,2 miliardi di utenti di Office, che è ancora oggi la piattaforma di produttività più diffusa al mondo, con i 433 milioni di profili qualificati di professionisti che sono su LinkedIn e naturalmente creare nuovi servizi per le aziende. Qui parliamo di business, non c'entra nulla Facebook. il concorrente principale di questa dimensione di Microsoft, e quindi di questa accoppiata Office e LinkedIn, è Google for Work, che però è diciamo ancora molto indietro rispetto a questo 1.2 miliardi di utenti Office. Digital News. Adesso parliamo della NATO, quella dei militari, perché si uniforma a quello che già da tempo fa e aveva deciso il Pentagono. I ministri della difesa della NATO hanno preso la decisione politica che il cyberspazio sarà considerato un teatro operativo separato, come terra, cielo e mare. Quindi ci sarà proprio un capitolo cyber defense, difesa digitale. Un attacco delle reti della NATO o degli alleati, ma alle reti elettroniche, potrà fare scattare la difesa collettiva in base all'articolo 5, piuttosto famoso e piuttosto noto, del trattato istitutivo dell'Alleanza Atlantica. Digital News. Un'ultima notizia riguarda la rete ferroviaria italiana, che ha inaugurato la nuova torre di controllo sul traffico ferroviario nazionale, che controlla 9.000 treni al giorno su oltre 24.000 km di binari, verifica lo stato dell'infrastruttura ferroviaria, che è piuttosto complicata. Pensate che è formata da circa 25.000 scambi. Adesso facciamo una panoramica su alcune delle tecnologie di cui parliamo spesso a 2024, ma in questo caso legate ad alcune delle start-up che si sono presentate agli investitori nella tappa di SMAO a Berlino. Questa settimana appunto c'è stato questo evento, alcuni investitori, alcuni esperti di startup internazionali, molti tedeschi, che hanno incontrato appunto una selezione di startup, 35 startup che si sono presentate. Allora, iniziamo da un servizio molto facile e sicuramente anche molto utile. Abbiamo parlato con Claudio Cubito, che è il fondatore di Growish, che risolve un problema abbastanza frequente. Beh, risolviamo il problema di raccogliere denaro tra amici e parenti tutte le volte che c'è una necessità, ok? Perché una statistica italiana dice che l'84% degli italiani hanno fatto un pagamento di gruppo, raccolto denaro insieme negli ultimi 12 mesi. E i principali problemi sono che non esiste un altro metodo se non passarsi il denaro a mano o tramite bonifico, la maggior parte dei casi devi stare dietro le persone per insistere che ti diano i soldi, e nel 35% dei casi alla fine non li ottieni. E quindi la nostra è una piattaforma che raccoglie denaro tra amici e parenti per esaudire qualsiasi desiderio. Allora, a chi si domandasse quali sono le occasioni più frequenti in cui devo raccogliere denaro in gruppo, quali sono? Beh, allora, per esempio il compleanno, quando nasce un bebè, una lista nozze, una raccolta di denaro in gruppo, una lista per bebè, quando voglio fare un viaggio di gruppo, quando voglio ad esempio fare degli sport di gruppo, le occasioni sono veramente tante, se ci pensiamo. Pensate ai regali tra colleghi in ufficio, tutte queste situazioni qua. E voi come garantite che tutto funzioni, e soprattutto come funziona? Come faccio a fare il versamento online? Okay. Beh, è semplice, vado su Growish, apro la mia colletta, la mia raccolta, la mia lista, la personalizzo con un paio di click, invito gli amici e i parenti a partecipare con Facebook, SMS, Twitter, con tutti i social o via email, condividendo un URL, ognuno versa la propria quota con carta di credito o bonifico bancario, alla fine la persona può o incassare il denaro sul proprio conto corrente o acquistare un regalo o una gift card tramite i nostri partner, che sono circa una quarantina, tra cui Amazon e altri. Voi vi tenete una commissione? Noi ci teniamo una commissione che l'organizzatore può decidere se metterla in capo a chi verso, in capo, oppure dedurla lui dai soldi che riceve. Di quant'è questa commissione? Questa commissione è su Growish il 3%, mentre sul sistema di Lista Nozze Online, perché abbiamo un sito specializzato sulle nozze, che è listanozzeonline.com, l'1,85%. Perché fate pagare meno se uno si sposa? Perché comunque sulle liste nozze le raccolte sono importanti, raccogliamo circa 20.000 euro per ogni lista nozze, per cui comunque abbiamo deciso di fare un servizio più economico, poi i versamenti sono decisamente più grandi. Dobbiamo aggiungere che la cosa importante è che abbiamo sviluppato una piattaforma anche per agenzie viaggi, negozi, quindi retail, quindi comunque la stiamo proponendo sul mercato per tutti quelli che hanno bisogno anche all'interno dei negozi a proporre delle liste regalo che non siano soltanto, che possono essere sia online che offline, perché diamo anche la possibilità di versare in negozio ed è tutto contabilizzato. Altra startup, ma qui non siamo online, non parliamo di internet, parliamo di una tecnologia per recuperare da un vinile una traccia audio. Sentite che cosa si sono inventati all'Università di Padova. Michele Patella è uno dei fondatori di Audio Innova. È molto semplice, noi effettuiamo una foto ad altissima definizione del supporto in vinile e attraverso tecniche di computer vision riusciamo a riconoscere, in base ai solchi presenti sul vinile, quale sarebbe l'audio che ne scaturirebbe se fosse fatto il play tradizionale. Questo ci dà due grossi vantaggi. Il primo, in termini di tempo di acquisizione dell'audio, per cui se il vinile dura 30 minuti non dobbiamo ascoltarlo tutto, ma il tempo di una foto e dell'elaborazione del computer abbiamo già l'audio estratto. Quindi pochi secondi o pochi minuti? Sì, secondi. L'altro vantaggio enorme è quello di poter lasciare i supporti negli archivi senza doverceli portare in azienda o in laboratorio, quindi anche per tutta una serie di costi, di normative. E in più, in questo modo, riusciamo a recuperare audio anche da supporti rotti, perché unendoli banalmente, facendo la foto, che il vinile sia spezzato, che sia integro, diciamo che la cosa ci incide poco. E l'audio che ne viene estratto è processato ed è quindi privo di tutte le impurità, del feeling un po' del supporto in vinile, quindi anche se c'è polvere, se ci sono graffi, sono tutte impurità che riusciamo a togliere in fase di processamento dell'audio. Potremmo inventare un lettore che fa la foto e fa lo streaming del disco. Beh, una delle prossime cose su cui stiamo lavorando è appunto un'applicazione per smartphone o per tablet in cui anche l'utente, diciamo domestico, quindi non più i grandi archivi, possa farsi la foto al suo supporto ed ottenerne l'audio. Chiaramente noi poi ci occupiamo, per gli archivi un po' più strutturati, anche di una conservazione nel medio periodo, medio-lungo periodo dell'acquisito. Ci sono così tanti dischi negli archivi tali per cui ci si può costruire un business sopra? Beh, noi non ci occupiamo solo di vinile. Photos of Ghost, che è il nome che abbiamo dato a questa implementazione, è solo una delle implementazioni di cui ci occupiamo, è probabilmente quella più accattivante per un pubblico non verticale sull'argomento audio. Ce ne sono tanti comunque, e soprattutto è un mercato in cui l'appassionato ha una capacità di spending non indifferente. Quindi sono anche archivi privati? Sì, assolutamente sì. Abbiamo archivi sia pubblici, istituzionali, fondazioni importanti, ma anche proprio privati cittadini che hanno archivi anche considerevoli, insomma. Ma quanto può costare, diciamo, questo tipo di processo a disco? Dipende molto, diciamo che a regime parliamo di decine di euro comunque. Ma quindi non è costosissimo? No. No, questo perché in realtà la parte costosa l'abbiamo già assorbita, e quella è la parte di studio e ingegnerizzazione del software. Quando usciremo con l'app, tutta questa fatica l'avremo già fatta, quindi anche per rimanere sul mercato, insomma, in maniera potenzialmente di business, il costo a disco sarà veramente irrisorio. Senti, faccio un'ultima domanda sulla qualità audio. Che tipo di qualità audio riuscite ad estrarre dal vinile? Perché qui c'è il dibattito, no? Se io metto sul giradischi un disco in vinile, ho una qualità audio altissima, no? Poi è vero che tutti i frusci eccetera eccetera, però usciamo da questo dibattito. Qual è la qualità? È molto più alta di quella del play diretto dal vinile, perché è esattamente quello che è inciso sul supporto. Per farvi un esempio banalissimo, se noi prendiamo l'MP3 a qualità più alta, è un decimo della qualità che riusciamo ad ottenere. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un'altra startup tra quelle che si sono presentate agli investitori internazionali durante questa tappa di Smau a Berlino questa settimana. Parliamo di realtà aumentata. Allora, uno dei temi di cui si parla molto spesso negli ultimi mesi riguarda la realtà virtuale. Beh, la realtà aumentata invece è un'altra cosa, non è virtuale, è una realtà, quindi qualcosa che noi stiamo vedendo in questo momento, ma aumentata da alcune informazioni. Sentiamo qual è la soluzione presentata da We Are. Emanuele Borasio è uno dei fondatori. La realtà aumentata in realtà non è una tecnologia, ma è un modo di veicolare le informazioni. Esiste, diciamo, da dopo la Seconda Guerra Mondiale in ambito aeronautico, dove i piloti hanno di fronte a sé uno schermo trasparente su cui, oltre alla vista percepita dai loro occhi, hanno delle informazioni aggiuntive generate dall'elettronica di bordo. Dal 2009, grazie alla presenza di alcuni componenti all'interno dei nostri mobile, smartphone, tablet, i MEMS, il gruppo accelerometri, giroscopi, bussola, tra l'altro creati anche in Italia da alcune aziende, possiamo avere la realtà aumentata direttamente sui nostri telefonini. Così possiamo mixare la vista, diciamo, percepita dai nostri occhi con tutte delle informazioni generate dal dispositivo. Uno degli esempi che si fanno spesso quando si parla di realtà aumentata è: sono di fronte a un Duomo nel centro della città, io con il mio smartphone inquadro il Duomo, se ho un software di realtà aumentata con le informazioni relative a quel monumento, beh, innanzitutto il sistema geolocalizza dove mi trovo e poi anche un sistema di riconoscimento dell'immagine mi dice magari Duomo della tal città, poi magari mi dà qualche informazione in più, anche più dettagliata. Quello che sta succedendo negli ultimi tempi sono i campi di applicazione della realtà aumentata, diversi da quello di cui ho fatto l'esempio. Quali sono questi campi di applicazione più interessanti? Certamente, oltre chiaramente al turismo che ci dà delle informazioni magari nella lingua desiderata dall'utente e soprattutto al supporto al marketing diretto, quindi non so, appunto la scatola, il packaging di una scatola di costruzioni e vedo già il modellino montato, e noi riteniamo che il corretto uso della realtà aumentata quotidiano sia proprio avere delle informazioni per risolvere i problemi quotidiani. Ho di fronte un macchinario, un elettrodomestico oppure la mia stessa automobile che ha un problema, tiro fuori il mio telefonino, il mio mobile, in futuro anche gli smart glass, per risolverlo. Vedo direttamente, sovrapposto all'oggetto reale, le informazioni di cui ho bisogno in quell'esatto momento. Allora, tu dici problemi quotidiani, però immagino che la vostra soluzione, poi parliamo anche di che cosa fa la vostra soluzione, sia un prodotto per i professionisti, non per me che ho un problema alla lavatrice, anche perché se ho un problema alla lavatrice chiamo un tecnico. Sì, indubbiamente abbiamo pensato a un software as a service chiamato Marco che permette ad ogni azienda di crearsi dei manuali di istruzione sia per i propri collaboratori sia per i propri clienti. È pensato a livello industriale per dare supporto soprattutto a quelle aziende che mandano in giro per il mondo i loro prodotti e hanno un servizio di assistenza estremamente capillare. Un utente finale, puntando il device, la logica, la filosofia è bring my own device, cioè proprio utilizzando dei device commerciali, di avere velocemente quella risposta per risolvere il problema nel miglior tempo possibile. Quando ho sentito parlare del vostro prodotto e adesso che vedo come funziona questo prodotto, comunque io mi sono detto: vabbè, ma esistono già altre aziende che producono soluzioni in realtà aumentata per la produzione, ad esempio, di manuali di manutenzione per l'industria. Dove sta la novità che voi presentate? La novità sta proprio nel fatto che noi non produciamo in realtà manuali, ma manteniamo operativo e completamente aggiornato un tool, appunto Marco. Un'azienda si crea i propri manuali in proprio, un utente senior aziendale che ha in testa i processi industriali, i processi di riparazione e di manutenzione dei prodotti, può crearsi da solo in autonomia, come creare una presentazione PowerPoint, un proprio manuale e distribuirlo agli utenti, ai suoi utenti clienti in tempo reale. E quindi la soluzione di We Are è scritto WEAR, dove AR sta per Augmented Reality, cioè realtà aumentata. E comunque, tra parentesi, tutti i link ai siti internet delle startup di cui stiamo parlando li trovate sul nostro sito internet www.radio24.it o anche nella pagina Facebook di 2024. Dunque, dicevo, questa soluzione permette di creare in modo facile un manuale, quindi ho davanti magari un quadro elettrico oppure un altro strumento, col mio smartphone inquadro quell'apparecchio che magari devo riparare e sullo smartphone appariranno dei comandi o comunque delle indicazioni, delle descrizioni proprio sopra alla fotografia o comunque all'immagine che sto inquadrando, sovrapposte ai vari pezzi del, che ne so, quadro elettrico oppure del motore. In questo modo io vedo un pezzo, voglio sapere come devo fare la manutenzione, clicco con o comunque tocco con il dito e mi appare l'informazione relativa proprio a quel pezzo. Dunque, dalla realtà aumentata parliamo di realtà virtuale, ma in questo caso realizzata e presentata non per essere vista e fruita su un visore a 360 gradi, ma pensata per organizzare ad esempio una mostra. E qui entriamo in una dimensione che potrebbe essere il futuro delle mostre. Ne abbiamo parlato con Marco Cappellini, che è l'amministratore delegato di Virtu Italy. Bene, allora, il Virtu Italy ha realizzato una mostra immersiva interattiva sugli Uffizi che si chiama Uffizi Virtual Experience, e l'idea è di dare al visitatore, che è un visitatore fisico che va in un luogo fisico, avere una nuova esperienza fatta tutta di tecnologie digitali con l'arte, in questo caso con l'arte degli Uffizi. E il primo episodio di Uffizi Virtual Experience è avvenuto a Milano alla Fabbrica del Vapore dal 20 di gennaio al 10 di marzo del 2016. Naturalmente gli Uffizi sono un esempio di quello che si può fare poi con tantissime altre opere d'arte, quadri, monumenti. Allora spieghiamo che cosa può vedere il visitatore di una mostra che, ricordiamo, è fatta in questo caso sugli Uffizi, ma non è agli Uffizi. Esattamente, allora la mostra non è agli Uffizi, è fatta con le opere degli Uffizi, affinché il risultato sia di livello eccellente e sia soddisfacente per il visitatore è necessario fare una serie di operazioni. Quindi la digitalizzazione ad altissima definizione è il passo zero per poter fare un'operazione di questo tipo con questa qualità. E questa qualità è la migliore che attualmente è disponibile sul mercato. Stiamo parlando di digitalizzazione delle opere che sono agli Uffizi. Esattamente, quindi con quest'opera di digitalizzazione abbiamo in sostanza la materia prima che permette di costruire sia nella parte immersiva che nella parte interattiva qualcosa che per il visitatore è del tutto nuovo. Ovvero il visitatore entra in una stanza, in quel caso era la cattedrale della Fabbrica del Vapore, e viene, si sente circondato sia da animazioni, da immagini, da musica, e a seconda del suo punto di vista all'interno dello spazio, ciò che vede cambia, anche se ovviamente c'è un filologico, in quel caso un racconto che in 20 minuti fa passare il visitatore da Giotto a Caravaggio. Questa è la parte immersiva, e dopo questo viaggio, dopo il quale molti visitatori si sono messi a piangere, tanta era l'emozione nel vedere dei capolavori a quella qualità che non è percepibile nemmeno al museo, perché si riescono a vedere dei dettagli di pochi millimetri magari su uno schermo di qualche metro, e quindi l'effetto per il visitatore è di scoperta o riscoperta anche relativamente a opere estremamente famose, la Venere Botticelli o l'Annunciazione di Leonardo. Fatta questa esperienza immersiva, il visitatore passa nella parte interattiva e va a approfondire in autonomia ciò che è stato elemento della suggestione precedente, quindi uno dei 60 capolavori, oppure altre 1000 opere che abbiamo digitalizzato e che sono disponibili in vari format interattivi attraverso un'app che il visitatore si scarica gratuitamente mentre è lì nella mostra, attraverso varie installazioni touchscreen o touchless. Le installazioni touchscreen, una di queste è dedicata agli studenti, e quindi la mattina abbiamo avuto scuole elementari, medie e superiori che apprendevano la storia dell'arte con questa tecnologia, in questo caso è Uffizi Touch, che il docente utilizzava per raccontare delle opere. Noi durante la trasmissione parliamo spesso di alta definizione, di 4K, di questa definizione televisiva che sta aumentando sempre più. In questo caso di che tipo di definizione stiamo parlando? Ancora più alta? In questo caso è estremamente più alta, si va da un minimo di 150 megapixel, che in un linguaggio televisivo fatto di K vuol dire avere almeno 8K o 16K, ma si raggiunge anche risoluzioni molto più alte, tant'è che alcune immagini sono di 10 gigapixel, vuol dire che un lato di quell'immagine è fatto da 100.000 pixel, e se raffrontiamo 100.000 con i circa 4.000 del 4K, capite che c'è un abisso di differenza, e quindi la risoluzione in questo caso è veramente molto elevata. E che tipo di display utilizzate per far vedere queste cose? I display sono, alle fine gli schermi sono schermi standard, ciò che cambia è il software che alimenta la visualizzazione, quindi io posso avere un'immagine infinitamente grande, attraverso un software vado a virtualizzare il dettaglio che mi interessa, e quel dettaglio magari lo vedo in un 2K o in un 4K, ma è un dettaglio di pochissimi millimetri che in quell'istante si è adattato ai 4K, ma fa parte di un'immagine enorme. Quindi non ci sono ancora delle tecnologie che permettono di vedere veramente le vostre immagini? Esatto, cioè se pensiamo a uno schermo televisivo, ancora non esiste uno schermo televisivo che possa, diciamo, istantaneamente visualizzare tutta l'immagine alla massima definizione. Il lavoro di digitalizzazione che è stato fatto da voi per il momento è stato fatto solo agli Uffizi o anche per altre opere? Allora, con questa estensione, questa risoluzione, che io sappia in Italia sicuramente è stato fatto solo agli Uffizi, è stato fatto probabilmente in un altro paio di musei a livello globale, forse la National Gallery di Londra e forse un altro museo in Germania, ma probabilmente non con questa entità, e quindi è una estrema novità per il pubblico avere questa massa e qualità di capolavori fruibile in questa modalità. Molto, diciamo, negli ultimi anni si parla molto del futuro dei musei, anche nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento a Torino dedicato al mondo dei musei. In questo caso non stiamo parlando di musei, ma stiamo parlando di mostre. Potrebbe essere questo il futuro delle mostre, quindi non far girare i quadri, che sono un costo, un problema, perché potrebbero anche perdersi questi quadri in caso di incidente, risolvere questi problemi con questa tecnologia. Io credo che quella è la direzione ineluttabile, e quindi si andrà sicuramente verso un ridimensionamento dello spostamento delle opere, il che non vuol dire che non si sposteranno più le opere, ma magari in un numero estremamente minore, e magari attorno ad un'unica opera spostata si potrà creare un racconto multimediale interattivo veramente integrato con l'opera, cosa che finora anche nei musei è mancato. Quindi fino ad oggi si è sempre visto il digitale come un appendice all'interno della visita museale, mentre io penso che il digitale si integrerà sempre più sia nel museo sia in un ambito, diciamo, esterno, laddove il digitale prevarrà, però magari sarà in quel caso integrato da un'opera reale. Beh, adesso parliamo ancora di fatto di realtà virtuale, ma di una realtà virtuale che poi diventa un prodotto vero e proprio fisico, quindi un prodotto reale. Stiamo parlando di una soluzione che è stata presentata da Else Corp, che è dedicata in questa prima fase alle calzature. Immaginiamo un cliente entra in un negozio, c'è uno scanner che scannerizza la forma del piede e da lì viene creata la scarpa ideale. Ci racconta questa esperienza Riccardo Isola, che è il direttore generale di Else Corp. Si siede davanti alla console, adagia i suoi piedi su questo scanner quasi senza accorgersene, perché è sotto la tavola della console, della virtual boutique, e c'è una scansione automatica che dura un minuto per piede. Il piede viene... uno deve togliersi le scarpe. Si deve togliere le scarpe e può lasciare le calze. Immediatamente il sistema riconosce, ricostruisce l'immagine dei suoi piedi. C'è un best match, se è un opzionale, in cui il sistema riconosce le migliori calzate rispetto all'offerta data dal produttore, dal brand o dai calzaturifici che fanno parte dell'iniziativa, e propone alcuni modelli che hanno il best fit con i piedi dell'utente. L'utente a questo punto... Quindi la miglior calzata, diciamo così, tradotto in italiano. Esattamente, la vestibilità. Ci sono vestibilità diverse, e lo scanner che immediatamente avverte le caratteristiche dei piedi di ognuno e propone già automaticamente il best fit, il best match. Dopodiché il consumatore ha davanti a sé dei samples, quindi un campionario, quindi generalmente una o due scarpe per modello di un certo colore e base, può scegliere a questo punto in maniera virtuale, perché vede la stessa scarpa sul monitor, e può scegliere quale colore mettere dentro la scarpa, come montare vari accessori, sono previsti N accessori da parte dei costruttori, da parte dei brand, e può configurare quindi la sua scarpa dei suoi desideri e vederla immediatamente a monitor sullo schermo in alta definizione, in 3D, quindi la vede che ruota, che si vede in tutte le possibilità. Ed è un processo molto veloce. Quando il consumatore è soddisfatto, basta che pigi il famoso click, parte l'ordine, e in un periodo che oscilla da un minimo di 2 ore tecnico, massimo generalmente di 6 settimane, tutto diciamo dipende dal produttore, dal brand che fa l'offerta, arriva o a casa o sul negozio di retail a seconda delle sue preferenze. Come fai in 2 ore minimo ad avere il prodotto? Esistono, allora, noi siamo il front end di soluzioni che in fabbrica sono state già concepite ormai da anni. Esistono delle fabbriche sperimentali dove ci sono produzioni fino a 300 paia al giorno, di paia di scarpe, ognuna differente dall'altra, e con un tempo di traversata dal momento della scansione del piede fino alla consegna delle scarpe finite di 2 ore. Ci sono dei filmati, è un progetto europeo del 2000-2004 che poi si è concretizzato in una fabbrica sperimentale che abbiamo in Lombardia, che tuttora è funzionante e tuttora viene utilizzata per i campionamenti e per le produzioni di scarpe ortopediche. Quindi voi producete questa tecnologia che è fatta da uno scanner, fondamentalmente da un sistema che riesce a realizzare il modello della scarpa, dopodiché fornite queste informazioni al produttore e qui finisce il vostro ruolo, diciamo. Esattamente, noi siamo una piattaforma tecnologica, il nostro prezzo sono le commissioni, tendenzialmente sul 5%, quindi commissioni basse, di gestione della piattaforma in cloud, perché noi garantiamo questo servizio in tutto il mondo. I primi negozi con questo sistema, secondo i programmi di Health Corp, dovrebbero arrivare all'inizio del 2017. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, vi ricordo che tutte le nostre interviste le troverete in versione integrale nella nostra versione podcast sul nostro sito internet. Ci fermiamo e riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024, è radio24.it. Mi trovate anche su Facebook e su Twitter. Continuiamo a parlare di startup e le ultime due che vi presentiamo in questa tappa che è stata effettuata a Berlino, SMAO a Berlino, per incontrare gli investitori internazionali. Federico Di Bella, che è uno dei fondatori di Wardroba, ci parla di commercio elettronico. Questo è un settore ancora in espansione, ci sono tantissime opportunità e magari basta avere un'idea per distinguersi dalla massa, per creare qualche cosa di nuovo. Che cos'è Wardroba? Wardroba è un, noi la chiamiamo social commerce platform, è un hub, è un luogo in cui abbiamo messo insieme le collezioni di brand e designer emergenti, quindi sono prodotti particolari che difficilmente si trovano sugli altri canali e che si trovano tutti qua. Quello che noi facciamo è offrire a questi brand, a questi designer, un supporto sul marketing, sulla logistica, sulla distribuzione, sia sul canale B2B che sul canale B2C, e gli diamo dei servizi proprio customizzati e personalizzati sulle loro caratteristiche, che sono molto diverse da quelle dei brand, diciamo, più noti e più forti. Quindi noi seguiamo tutto il processo che non è il design, vogliamo che loro si occupino di trovare grandi prodotti e noi li aiutiamo a commercializzarli, a competere sui canali digitali. Quindi non è vero quello che si diceva tanti anni fa, alcuni lo dicono ancora, che con internet puoi andare direttamente sul mercato, direttamente sul consumatore finale, la cosa è mica così facile. Ma diciamo che, allora, come prima cosa, il problema è un problema di visibilità che scontano chiunque sconta se vuole competere sul mercato digitale, perché il costo acquisizione del cliente è comunque molto alto. Alcune piattaforme, le più note, ovviamente è come essere su quelle piattaforme è come essere su Google, cioè uno è su Google, è su web, ma sfido chiunque a costruire un sito web e poi a vedere che il traffico è ricco senza fare pubblicità. Quindi il problema di essere sul web ovviamente è una precondizione, che una presenza web ci vuole, ma portare poi il traffico è un'altra cosa. Inoltre poi ci sono tutta una serie di problematiche logistiche e e problematiche di gestione che non sono proprio così banali. Quindi è per questo che chi è focalizzato sul creare prodotti interessanti deve avere un supporto per fare tutto il resto. Però il problema di farsi vedere è un problema anche per voi, perché non siete un brand famosissimo, siete una startup ancora un po' sconosciuta. Certo. Beh, allora, assolutamente sì. La cosa che facciamo rispetto al singolo brand, ovviamente iniziamo ad avere una massa un po' più grande, uno scopo un po' più grande avendo tanti brand. Sicuramente stiamo cercando dei canali di acquisizione che siano meno costosi di Google piuttosto che Facebook, quindi stiamo facendo degli accordi con delle community, sostanzialmente dei siti che a loro volta approcciano delle community molto specifiche già di compratori. Inoltre noi stiamo lavorando sul canale B2B e come è ovvio il canale B2B si basa su delle relazioni industriali che, se poi funzionano, vengono perpetuate, c'è un tasso di fedeltà molto più alto e quindi non si fa tutti i giorni la competizione. Scherzando prima dicevamo, se si è sul B2C ogni giorno bisogna alzarsi e competere con Amazon, competere con Yux come la famosa gazzella che sa che deve scappare. Sul B2B si riescono a stabilire delle relazioni di diverso tipo e noi vediamo che queste funzionano. Noi diciamo vogliamo offrire delle soluzioni ai brand indipendenti ed emergenti. Ovviamente la vetrina online è fondamentale perché bisogna essere presenti online, ma gli offriamo tutta una serie di altri servizi. Concludiamo questa panoramica, questa diciamo breve panoramica su alcune delle startup che ho incontrato questa settimana con i pagamenti elettronici. Anche qui sta succedendo di tutto, ci sono tantissime soluzioni, è veramente complicato riuscire a orientarsi. La soluzione che ho incontrato questa settimana si chiama Solo, scritto proprio così, semplicissimo. Orlando Merone è uno dei fondatori di Solo. Solo è un'applicazione web che consente a qualsiasi partita IVA, quindi un professionista, un artigiano, un commerciante, una piccola media impresa, di incassare in maniera semplice con carta di credito e debito, senza che i propri clienti debbano scaricare alcuna applicazione, utilizzare alcun hardware, né tantomeno registrarsi al servizio. Senti, questo serve per ricevere pagamenti fisicamente, che ne so, in un negozio, in un bar, in un esercizio commerciale in genere, oppure per ricevere pagamenti online? Allora, noi partiamo dall'online e portiamo il concetto di accettazione del pagamento online nella vita reale. Quindi Solo è pensato per quel professionista che non si doterà mai del POS, che magari ha bisogno di integrare il suo gestionale di fatturazione con un sistema di incasso con carta di credito, per quell'artigiano che non può ancora permettersi di vendere online e con un e-commerce, per un bed and breakfast, un'attività turistica che ha necessità di ricevere prenotazioni a distanza, e ci sono infiniti casi d'uso, insomma. Accettate anche i bancomat? Allora, tutti i bancomat di nuova generazione che si appoggiano a un circuito Visa, Mastercard, Maestro, WuPay sono assolutamente accettabili sulla nostra piattaforma. In quel caso va sulla piattaforma e sul circuito della carta di credito, non sul circuito bancomat? Assolutamente. Certo. Senti, quanto costa questo servizio? Allora, il servizio è assolutamente gratuito, lato cliente e anche lato merchant. Non c'è nessun costo di iscrizione, nessun costo di gestione, non c'è nessun canone mensile, si paga se e soltanto quando lo si utilizza, il 2,5% più 25 centesimi su ogni transazione, IVA inclusa, e ovviamente questa fee è pensata per scendere all'aumentare del transato, quindi siamo convenienti sia per chi fa poche transazioni durante il mese o durante l'anno, come anche per chi ne fa molte. Come dicevo, in questo settore stanno succedendo tantissime cose, ci sono tantissime società che offrono servizi di pagamento e potremmo dire oggi c'è l'imbarazzo della scelta anche a prezzi più bassi. Poi dipende dalle esigenze di ogni professionista, di ogni azienda. Magari una soluzione diversa comporta tutta una serie di opzioni di diverso genere, ma insomma ognuno fa le proprie valutazioni. Comunque il mercato è molto ampio e oggi direi che non ci sono più scuse per non avere il bancomat oppure il mobile POS o anche questi sistemi che prevedono di fare tutto con uno smartphone o tramite un sito internet. Mercato molto molto vasto, e sicuramente sul tema dei pagamenti elettronici torneremo, perché è un tema molto importante e appunto molto vasto, con tante soluzioni. Adesso continuiamo. Dunque, alcuni giorni fa dagli Stati Uniti è arrivata una provocazione nel mondo dei robot. È stato presentato un semplice robot, che più che un robot è un piccolo braccio meccanico, che è collegato a un sistema anche abbastanza rudimentale di, chiamiamolo, intelligenza artificiale. E il robot, o meglio questo braccio meccanico, ha un punteruolo. Un uomo deve mettere il dito sopra una piccola piattaforma e questo braccio meccanico decide così a caso di, o comunque in base a tutta una serie di fattori che sono stati inseriti dai programmatori, decide se pungere l'uomo oppure no. E uno dice, vabbè, ma a cosa serve questa cosa? A niente, serve a niente. Serve però a provocare un dibattito che esiste già da un po' di tempo, ma poi si crea un po' di dibattito, poi si torna a sopire questo dibattito, cioè qual è il punto fondamentale. Attenzione, perché l'evoluzione dell'intelligenza artificiale creerà delle macchine così consapevoli al punto che potrebbero addirittura decidere di far del male agli uomini. A parte che questo andrebbe contro la prima legge della robotica, che dice che un robot non deve far male al produttore, cioè all'uomo che lo ha creato, ma visto che stiamo andando molto avanti, e questa non è una legge fisica, è una legge che ha scritto Asimov, e quindi potrebbe essere violata tranquillamente. Ma comunque c'è un grosso dibattito. Ricorderete che lo scorso anno una serie di scienziati aveva firmato un documento per richiamare l'attenzione delle Nazioni Unite, della comunità internazionale, verso le macchine automatiche del futuro dotate anche di armi e quindi intelligenza artificiale capace in autonomia di togliere la vita all'uomo. Insomma, sono problemi etici piuttosto importanti, e mano a mano che l'intelligenza artificiale migliora le proprie performance, questi sono problemi sempre più concreti. È una buona occasione per parlarne con Francesca Rossi, la professoressa Francesca Rossi, che aveva, tra l'altro, è stata una delle prime firmatarie di quel documento. Ben due documenti sono stati fatti lo scorso anno. Francesca Rossi insegna informatica all'Università di Padova. Benvenuta a 2024. Grazie. Ci dà una breve, sintetica ma chiara spiegazione di che cos'è l'intelligenza artificiale? Dunque, l'intelligenza artificiale intanto è un termine che è nato nel 1956, è stato coniato da John McCarthy, che è un ricercatore, che in quell'anno ha messo insieme un po' di persone per cercare di dare alle macchine intese come software, hardware, eccetera, delle potenzialità di comportarsi in un modo che noi associamo all'intelligenza negli umani. Quindi questa è l'idea dell'intelligenza artificiale. In realtà molto spesso intelligenza artificiale si pensa che vada a risolvere dei problemi che ancora non hanno una soluzione ben chiara e precisa. Quando poi vengono risolti, come tanti ne sono stati risolti, i programmi che prima erano etichettati come intelligenza artificiale diventano dei semplici programmi che risolvono i problemi. Vengono declassati. Sì, declassati. Sì. Una caratteristica, e probabilmente negli ultimi anni questa caratteristica è più spiccata o se ne parla comunque di più, è che le macchine non solo sono in alcuni ambiti, poi vedremo nel futuro in quali altri ambiti, forse in tutti gli ambiti, capaci di fare cose simili a quelle che fanno gli umani, ma sono capaci oggi di apprendere da sole, senza che noi insegniamo alle macchine. Sì, beh, noi chiaramente dobbiamo dare alle macchine qual è il meccanismo per effettuare questo apprendimento. Quindi questo tuttora richiede uno sforzo da parte dell'umano che codifica dentro le macchine questo meccanismo e che riesce a capire quali sono le caratteristiche del problema da risolvere necessarie perché la macchina sappia apprendere bene, e riesce anche, perché queste macchine, diciamo, siccome apprendono da degli esempi, quindi riesce a dare alle macchine una quantità e qualità di esempi tale che poi la macchina, tramite questi esempi, riesce a comportarsi bene anche con cose che non ha mai visto, con altre situazioni che non ha mai visto. Quindi impara da sola. Certo. Di fatto, insomma. Quindi esiste il rischio che la capacità di apprendimento sia così veloce, così potente, per cui le macchine saranno effettivamente molto più capaci in tutti gli ambiti rispetto agli uomini. Beh, ancora questa cosa secondo me è molto lontana. Chiaramente le previsioni che possono venire da ricercatori, insomma, diversi, sono diverse tra loro. Cioè ci sono quelli che dicono fra 10 anni siamo spacciati. Sì, però dal 1956, quando è stato coniato questo termine, sono sempre state fatte delle previsioni a quando ci sarà una macchina intelligente più dell'uomo in tutti i campi, eccetera. E da allora le previsioni hanno come punto, diciamo, più probabile sempre i 20 anni, quindi è sempre stato così, ma dal 1956 quindi stiamo tranquilli, quindi, no, e quindi diciamo ultimamente chiaramente i risultati di ricerca hanno accelerato molto, insomma sono arrivati molto più velocemente, sono fatte tante scoperte scientifiche e le cose diciamo stanno un po' convergendo, però devo dire che diciamo una macchina intelligente in tutti i campi ha bisogno, anche a parte di quanti anni ci vorrà, ma soprattutto ha bisogno che vengano risolti certi problemi fondamentali, come per esempio fornire alla macchina quello che noi chiamiamo il ragionamento del senso comune, senza il quale è un po' difficile sia per un umano che per una macchina poter spaziare su tutti i campi ed essere intelligente su tutti gli aspetti. Sì. Quindi quello non sappiamo quanto ci vorrà, magari domani verrà una persona che risolve questo problema, ma insomma è una sfida abbastanza significativa che ancora non è stata risolta. Però è vero che ci sono tante macchine intelligenti in tanti campi specifici invece, e anche che si comportano molto meglio degli umani in campi specifici che sono stati affrontati. Sì, infatti si dice, è interessante questo punto, si dice la macchina non è che deve essere perfetta, basta che sia migliore degli umani in determinati ambiti, e oggi vediamo appunto che in alcuni ambiti specializzati la macchina è più brava. Ci fa degli esempi per capire poi già oggi che cosa è intelligenza artificiale, magari noi non ce ne accorgiamo, e che cosa magari potrebbe succedere nei prossimi anni anche in ambiti specializzati? Dunque ci sono tante cose che le persone usano anche tutti i giorni dove dentro c'è dell'intelligenza artificiale, ma noi normalmente non lo etichettiamo più come intelligenza artificiale. Per esempio il navigatore che usiamo nella nostra macchina, nel nostro cellulare, è basato su un algoritmo tipico di intelligenza artificiale che si trova in tutti i libri di testo. È una delle cose fondamentali dell'intelligenza artificiale, che si chiama un algoritmo A-Star, che serve appunto per trovare la strada più breve, per esempio comunque migliore secondo certi criteri, da dove siamo a dove vogliamo arrivare. E chiaramente questa sembra una cosa ovvia da fare adesso che sappiamo come farla, ma non era così ovvio capire come fare velocemente a trovare la strada migliore tra tantissime strade che ci sono, tra dove siamo e dove vogliamo arrivare. Quindi quella è una cosa tipica intelligenza artificiale. Un'altra cosa tipica che noi usiamo nelle nostre macchine fotografiche, che ogni volta che facciamo una foto a un amico, a una persona, viene riconosciuto il viso e quindi esce quel quadratino verde intorno al viso. Esatto, cioè. E quella è una cosa tipica che viene dall'area di ricerca della visione automatica, che nel tempo si è migliorata e è riuscita appunto a identificare, sì. Anche se i visi sono non perfettamente frontali, eccetera, a identificare i visi delle persone. Se inquadriamo un pallone, non esce il quadratino, cioè capisce proprio che quello è un viso. Certo, certo. Sì, sì. Chiaramente non c'è il 100% dell'accuratezza in tutte queste macchine, ma sicuramente quella è una cosa ormai ovvia che viene usata da tutti quanti. Un'altra cosa che spesso usiamo e non funziona così male sono questi assistenti di domande e risposte, tramite domande e risposte come Siri, come Cortana e ad altri che possiamo avere sui cellulari. Altre cose che a volte usiamo sono per esempio Google Translate, che ci permette di tradurre da un linguaggio all'altro, e ormai è più di 80 linguaggi, e quello usa proprio delle tecniche molto anche recenti di intelligenza artificiale, di statistica, di apprendimento automatico, e quindi la traduzione non è ancora perfetta, però in molte situazioni ci permette di capire insomma abbastanza bene cosa viene detto un linguaggio e trasformarlo in un altro. Chiaramente ci sono anche cose che non sono ancora usate da tutti quanti, ma che che presto saranno disponibili, come per esempio le auto che riescono a guidare da sole con varie tecnologie, Google, Toyota, Uber, Tesla, ognuno ha la sua tecnologia, però diciamo sono abbastanza vicini ad essere pronte per andare sulle strade. E quello che un po' le trattiene sono un po' gli aspetti etici che lei ha citato e le varie regolamentazioni che bisogna aggiungere oltre a quelle delle macchine normali. Certo, nel campo industriale è molto, diciamo, c'è molta attesa per un aumento della capacità di intelligenza artificiale per gestire ad esempio linee di produzione, magazzini, eccetera, eccetera. Certo, quindi ci sono, per esempio, nel campo della robotica ci sono questi robot molto efficienti ed autonomi che riescono a gestire da soli dei grandi magazzini come quelli di Amazon, che con la ditta, una ditta che si chiama Kiva, che appunto permette con questi robot di gestire autonomamente dei grandi magazzini, di costruire tutti i pacchi che bisogna creare per i clienti a partire da oggetti che sono anche sparsi in posti molto diversi di un magazzino e dove gli umani hanno una diciamo un'area di intervento molto piccola a questo punto. Poi c'è tutta i droni che possono servire per recapitare, no, la posta o i pacchi, quindi diciamo nel campo delle, e poi ci sono chiaramente tutti i robot che possono essere usati per esempio nelle catene di montaggio, cioè nelle catene di montaggio, ma insomma nelle varie fabbriche, sì, dove c'è bisogno di un lavoro abbastanza ripetitivo che viene fatto dagli umani ma che potrebbe anche essere fatto da questi robot che riescono tramite la visione automatica e l'apprendimento anche a riconoscere, se anche non è completamente automatico, ma delle piccole variazioni di dove si trovano gli oggetti, sì, dove bisogna, sì, metterli, perché, recapitarli, diciamo, eccetera. L'automazione nelle linee produttive è una cosa che conosciamo da anni, però certo, ci sono alcuni ambiti dove, certo, bisogna avere dei margini di correzione, flessibilità certo, che ancora alcune macchine non, certo, hanno. Una cosa che è tipica degli uomini è la creatività, anche, sì, la capacità di decidere in modo a volte irrazionale però risolvendo dei problemi, insomma, certo, tra l'altro noi italiani in questo siamo anche molto bravi. Ci arrangiamo. E qui le macchine sono capaci? Beh, ci sono molti ricercatori che studiano come creare delle macchine intelligenti dal punto di vista creativo, per esempio anche nell'ambito della musica. La Sony e anche altri ricercatori in altri centri di ricerca sta sviluppando, anzi un grande progetto già, sulla generazione autonoma di musica originale sulla base di certi stili. Quindi questo progetto, questo programma, gli viene dato in input tutta una serie di spartiti, per esempio, non so, di Bob Dylan, e in output viene fuori una nuova canzone di Bob Dylan. E diciamo, questo è stato fatto provandolo anche con, facendo insomma provare a tanti anche specialisti musicali, e diciamo il risultato sembra essere abbastanza di alta qualità, nel senso che anche degli specialisti farebbero fatica a capire se la cosa è veramente fatta da una macchina oppure da un umano, sì, tipo un Turing test insomma per, sì, la creatività, sì, sì, musicale, sì, sì. E poi insomma, per esempio, so che c'è un mio collega sempre della Sony che appunto ha come suo scopo quello di far vincere il premio Nobel sulla scoperta scientifica, per esempio in biologia. Lui è interessato alle scoperte biologiche, ha un programma. Ah, beh, cioè è un non so se il regolamento del Nobel prevede di assegnarlo eventualmente a una macchina, ma senta, molte di queste cose si fanno in laboratorio. Per portare queste tecnologie su larga scala, magari sul nostro smartphone, ci sono dei problemi di capacità di elaborazione dei dati? Cioè, se un conto è fare una cosa in laboratorio, magari con macchine potentissime, un conto è farlo per strada col mio smartphone, cioè questo è uno dei problemi o i problemi sono altri? No, i problemi della scalabilità, cioè di saper gestire delle grandi quantità di dati e anche delle grandi quantità di accessi e di persone contemporaneamente, sicuramente c'è, ma diciamo questi problemi sono stati gestiti già per tante applicazioni. Per esempio Google chiaramente è l'azienda che ha maggiormente questi tipo di problemi, perché appunto appunto ha tantissimi accessi contemporaneamente, però lo risolve non con computer potentissimi, ma con tantissimi computer non molto potenti, normali computer. Google stesso ha fatto degli importanti, generato degli importanti metodi che poi sono usati anche da tanti altri proprio per gestire in modo efficiente questi problemi. Sì. Le faccio una domanda sui problemi etici, perché effettivamente soprattutto negli ultimi mesi, anni, i ricercatori, chi si occupa di questi temi, ha sollevato in modo molto, molto forte tutta una serie di problemi etici. Quali sono e perché dobbiamo preoccuparci di tutto ciò? Beh, perché appunto se noi vogliamo che questi sistemi intelligenti siano veramente intelligenti, dobbiamo dargli la possibilità di prendere delle decisioni in modo autonomo, e quindi dobbiamo fidarci che le decisioni che prendono siano delle buone decisioni e che, se ci sono dei principi etici associati a queste decisioni, che seguano dei principi etici abbastanza allineati con quelli umani. Quindi bisogna che noi riusciamo a costruire questi sistemi in un modo che si raggiungano il loro scopo, quello per cui li abbiamo creati, nel modo più efficiente, migliore, più veloce possibile, però che anche tra varie opzioni che hanno scelgano quella che meglio rispetta questi principi etici che secondo noi sono quelli da seguire. Quindi se per esempio, non so, noi diciamo alla nostra macchina che guida da sola, e gli diciamo portami a casa nel più breve tempo possibile, vogliamo che lo faccia, però contemporaneamente non deve investire nessuno, non deve rispettare i limiti di velocità, non deve farmi venire il mal d'auto, insomma. Quindi ci sono tutti questi aspetti collaterali che vanno rispettati e seguiti, compresi i principi etici o valori morali che noi vogliamo codificare. Chiaramente questi principi etici ce ne sono di base, un substrato di base, però saranno anche specifici all'ambiente in cui noi vogliamo usare la macchina. Quindi per le auto che guidano da solo ce ne saranno alcune, per i robot da compagnia per gli anziani ce ne saranno altre. Pensiamo, insomma, ad esempio ai robot in campo medico. Certo, sì. Quindi anche lì appunto ci sono delle... Quindi diciamo lì in realtà non c'è ancora l'idea di macchine, sia hardware che software, che prendano delle decisioni da sole, ma che siano di supporto significativo alle decisioni che poi verranno prese dal medico. Sì. Quindi sia sul tavolo operatorio, se si verifica un qualche imprevisto, chiaramente la macchina può diciamo in grande velocità e anche con freddezza, che a volte può mancare agli umani, sapere, suggerire quali sono le azioni migliori, e anche nel campo della diagnosi e del suggerimento delle terapie migliori. Ma lei o i ricercatori con i quali lei lavora, ha lavorato, e con magari i quali avete anche scritto questa lettera manifesto, pensa che ci dovrà essere una sorta di regolamentazione internazionale, accordo internazionale su, almeno su, in alcuni ambiti? Perché voi ad esempio vi siete occupati di armi, sappiamo benissimo che ci sono studi che stanno puntando alla guerra del futuro, dove non ci sono o sono pochissimi gli umani, però con macchine che però vanno a uccidere potenzialmente degli umani. Sì, diciamo sì, infatti dopo questa lettera che è stata pubblicata, che aveva come scopo quella di dire appunto di sforzarci nell'ambito di ricerca di considerare anche i problemi etici, è stata anche pubblicata un'altra lettera che era proprio specifica per questo aspetto dell'eventuale possibile divieto di sviluppare algoritmi che potessero essere specificamente pensati per lo sviluppo di armi autonome. Diciamo, le nostre associazioni professionali e scientifiche giocano questo ruolo di informare i ricercatori e anche l'opinione pubblica su quali sono i pro e i contro, o quali sono la realtà delle cose. Diciamo, la tecnologia è abbastanza avanzata in questo campo, per esempio quella della visione automatica, che senz'altro è fondamentale nel campo delle armi autonome. Diciamo, però diciamo, chiaramente ci sono tanti pro e contro in decidere se vietare o no la ricerca nei riguardi di questo particolare ambito. In passato ci sono esempi di altre diciamo, comunità scientifiche che hanno deciso di limitare la loro ricerca, non so, in ambito genetico, in ambito fisico, in ambito in tanti ambiti. Nella ricerca in intelligenza artificiale ancora siamo allo stadio di informarci, di capire com'è la situazione, e chiaramente questo può aiutare sia noi a capire come veramente vogliamo muoverci, e sia anche cercare di influenzare e di far capire meglio le cose agli organi internazionali di governo, che poi dovranno eventualmente decidere cosa fare. Sì. Molto bene, io la ringrazio, buon lavoro. Grazie. E a presto. Grazie. Adesso cambiamo argomento, parliamo di una cosa che non ha molto a che fare con l'intelligenza artificiale, o comunque è una infrastruttura che supporta anche tutto quello che avviene nelle varie parti del mondo anche grazie all'intelligenza artificiale. Parliamo di banda larga, l'infrastruttura fondamentale della società di oggi. Come sapete, il 3 giugno è stato pubblicato il primo bando per la realizzazione di una infrastruttura che possa portare internet a velocità di almeno 100 o 30 megabits a seconda delle zone nelle aree a fallimento di mercato. Stiamo parlando di Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Allora, sapete che lo schema del piano del governo è più o meno questo: nelle aree dove c'è mercato, che gli operatori vadano e si facciano concorrenza. Invece, dove gli operatori non vanno, quindi nelle zone cosiddette a fallimento di mercato, è stato deciso di fare un intervento. Allora, se volete sapere tra l'altro qual è la situazione a casa vostra o dove c'è la vostra azienda, e soprattutto quale sarà la situazione, è stato attivato un nuovo sito internet proprio questa settimana. Si chiama bandaultralarga.italia.it. Facile facile, bandaultralarga.italia.it. È possibile vedere i piani da qui al 2020, quindi voi mettete la vostra via, via Garibaldi numero 10, città Tal dei Tali, e lì vedete se già la situazione è una situazione buona perché c'è già una buona connettività, oppure se ad oggi la connettività non è buona, e quali sono i piani da qui al 2020. Però chi si domanda perché il primo bando riguarda solo 6 regioni, perché abbiamo detto Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, stiamo parlando di una popolazione potenziale coperta da questa infrastruttura che verrà poi realizzata, perché adesso stiamo parlando del bando, ma ci vorranno insomma 2-3 anni per poi realizzare tutto ciò. Allora, a chi si domanda perché solo 6 regioni, visto che ne abbiamo 20 di regione, sentiamo che cosa ha detto questa settimana il sottosegretario con delega alle comunicazioni all'interno del Ministero per lo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, intervistato da Giorgio Stamatopoulos. Per le aree bianche, come abbiamo detto fin dall'inizio, noi abbiamo previsto 2 o 3 step possibili per far partire i bandi comunque prima della pausa estiva. Teoricamente, se tutte le regioni avessero firmato, avremmo potuto farlo anche già ora. Abbiamo fatto il primo con le prime 6, stiamo trattando con le altre, oggi ha firmato il Piemonte. Il messaggio è chiaro, via via, che c'è un gruppo di regioni, si parte con un bando. Chi non è in grado di firmare la convenzione rischia di aspettare il passaggio successivo, ma il nostro obiettivo è di far partire tutti i bandi prima della pausa estiva. Perché nei bandi non viene richiesta la velocità di upload e di download simmetrica, diciamo così, visto che ormai siamo nell'era cloud, traffico in entrambe le direzioni sempre comunque? Per scelta, comincio ora, da questa è la prima occasione di una domanda, io non parlo dei bandi di gara, credo sia intuibile il motivo. Cosa possono fare privati cittadini, comuni, amministrazioni per velocizzare, diciamo, i privati cittadini? Monitorare il nostro lavoro, monitorare quello delle regioni, monitorare quello di Infratel e degli operatori e segnalare continuamente eventuali difficoltà ma anche esigenze. Penso che alle amministrazioni e i soggetti dell'imprenditoria debbano cominciare a lavorare esattamente sull'utilizzo della fibra. Posare la fibra, anche se recupera un grande ritardo, posare la fibra è solo una precondizione. Il tema vero è lo sviluppo dei servizi e la competizione sui servizi alle imprese, ai cittadini, alle scuole. Parallelamente al lavoro sulla posa della fibra occorre sviluppare questo che è il vero terreno del futuro. Stiamo molto avanti con l'offerta, ma è la domanda che ancora, cioè, come si può, diciamo così, stimolare di più? Questa è un'antica questione su cui a lungo l'Italia è rimasta bloccata, cioè l'idea che non vi fosse sufficiente domanda da giustificare l'investimento. Io appartengo alla scuola che dice che senza una offerta reale, senza un investimento reale, ed è il percorso che abbiamo fatto, non si sarebbe mai stimolato la domanda. Quindi io sono convinto, e i risultati già di oggi lo dicono, che il dinamismo che si mette in moto nella società e nel mondo dell'imprenditoria è determinato esattamente dal piano strategico, dall'investimento pubblico, dagli operatori che finalmente svolgono un ruolo più incisivo e più concorrenziale tra loro. Certamente c'è anche un problema complessivo di cultura e di mentalità che stiamo aggredendo anche con altri sistemi. Segnalo solo che, per esempio, il lavoro che d'accordo con noi sta facendo Google, inviando i ragazzi in tante piccole imprese italiane, perché l'Italia è terra di piccole e piccolissime imprese, esattamente per aiutare a capire come, rispetto a quello specifico business, la rete può aiutare, è un lavoro prezioso. Facebook lo sta facendo con i commercianti. Occorre che tutti noi, in qualche modo, siamo protagonisti in questa sfida da vincere. A proposito di servizi, alcune responsabilità ce le hanno anche le aziende, perché lo abbiamo detto anche nel corso di questa puntata, il grado di digitalizzazione di molte aziende non è tanto elevato e questo crea un circolo vizioso. Invece bisognerebbe creare un circolo virtuoso, creare servizi digitali che vengano consumati dai cittadini, dai consumatori. Poi delle responsabilità ce l'ha anche lo Stato, che però da questo punto di vista devo dire sta facendo alcune cose sia in termini di servizi digitali sia in termini di infrastruttura. Sull'infrastruttura sicuramente si poteva far meglio, però c'è sempre di meglio ma c'è anche sempre di peggio, quindi possiamo anche accontentarci. Alcune cose dei bandi io ancora non le ho ben capite, a parte, questa è una parentesi, non capisco il motivo per cui un sottosegretario non possa parlare di un bando, perché il bando è lì, uno può commentarlo, può raccontare cosa c'è scritto nel bando senza nessun tipo di problema. Questo proprio non l'ho capito. Comunque, altre cose che non capisco: molti parlano di fibra ottica, ma attenzione, nei bandi non c'è scritto, io gliel'avrei scritto esplicitamente così a scanso di equivoci, si sa mai che qualcuno venga lì e si proponga con il vecchio rame. E poi, allora, velocità simmetriche: stiamo andando molto velocemente verso una società che usa sempre più servizi cloud. Lo fanno i cittadini, lo fanno sempre più le aziende, ma anche se non utilizzano servizi cloud, devono scambiarsi informazioni. Quindi le velocità simmetriche sono fondamentali e sarebbe stato più opportuno inserirlo nel bando. Bene, comunque, insomma, ci dobbiamo anche accontentare. Un passo molto importante è stato fatto e noi concludiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. E anche questa settimana tutte le interviste che avete ascoltato in questa versione podcast sono tutte in versione integrale. 2024 è l'unico programma di 2024 che vi offre tutte le interviste in versione originale integrale nella sola versione podcast. Quindi più contenuti in questa versione digitale online sul nostro sito internet o sulle applicazioni. E continuate a scriverci, perché sono molti dei nostri ascoltatori che ci scrivono e ci ricordano e ci dicono quale applicazione viene utilizzata su Android o su iOS. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana con un ringraziamento per la vostra attenzione.